Radio Doc, in collaborazione con History Channel. Buonasera e ben ritrovati a Radio Doc. Questa sera vi proponiamo un radiodocumentario in collaborazione con History Channel dedicato al mondo dei robot. Un viaggio affascinante guidato dalla voce di David Wilson, esperto di robotica. Vi segnaliamo che la versione integrale del radiodocumentario che state per ascoltare andrà in onda su History Channel giovedì 9 aprile alle 10.35 col titolo Eureka, il genio dei robot. Siamo cresciuti guardando film dove i robot sono dotati di poteri sovrumani. Abbiamo visto anche i veri robot cambiare, passando da novità divertenti a pratici aiutanti domestici. E proprio negli ultimi anni abbiamo assistito ad alcune svolte sbalorditive. Senza che ce ne accorgiamo, ci sono già milioni di robot al lavoro nel mondo. I robot fanno i lavori che l'uomo non può o non vuole fare. Ma prima di cominciare, mettiamo in chiaro una cosa. Che cos'è un robot? Un robot è qualsiasi macchina che possa usare i sensi. Pensare prima di agire e svolgere un lavoro. Sentire, pensare, agire. Per sentire, un robot raccoglie informazioni attraverso sensori come telecamere e microfoni. Per pensare, analizza i dati attraverso dei processori. Poi il robot agisce nel mondo reale utilizzando organi terminali come braccia o gambe. Forse non lo notiamo, ma abbiamo a che fare con i robot tutti i giorni. Servizi al cliente che usano il riconoscimento vocale. Macchine digitali che riconoscono i volti, distinguono i sorrisi e rimuovono gli occhi rossi. I sistemi di frenata ABS decidono come dosare una frenata sicura. Grattacieli intelligenti che misurano l'angolazione della luce solare per creare la giusta temperatura. Tutte queste cose sentono, pensano e agiscono. Sono quindi robot. I robot hanno le forme e le dimensioni più disparate. Non sai mai cosa aspettarti. Situata nel cuore di Pittsburgh, in Pennsylvania, la Carnegie Mellon University da decenni è all'avanguardia nel campo dell'ingegneria robotica. La nostra avventura comincia con un viaggio in auto con il mio vecchio amico Chris. Ma l'autista è un tipo strano, perché non c'è nessuno seduto al posto di guida. Incontriamo Boss, il nostro robot autista. Boss è un robot autonomo. Ciò significa che opera senza l'intervento dell'uomo. Ecco come funziona Boss. Per prima cosa, Boss percepisce il mondo esterno. Un GPS lo informa della sua posizione, della sua quota e velocità. Telemetri laser gli forniscono una rappresentazione tridimensionale degli oggetti vicini, dei cordoli e delle corsie. Boss usa poi un computer nel bagagliaio per combinare le informazioni ed elaborare i dati, per costruirsi una propria immagine del mondo. Dopo aver fatto la valutazione, Boss invia le informazioni al volante, all'acceleratore e ai freni. E agisce secondo lo schema migliore. Secondo Chris, i veicoli autonomi come Boss saranno in commercio già nel 2020. Ma altri veicoli sono già stati messi a punto. Il Logger è dotato di una serie di sensori, di GPS, di telemetri laser e videocamere. Quando scopriamo quello che può fare, iniziamo a vederlo come qualcosa di più di un semplice elicottero. I robot elicotteri si usano sulle piantagioni per studiare le frane e per entrare nei vulcani attivi. L'esercito americano utilizza i propri elicotteri robot per facilitare le operazioni di puntamento delle armi o per la ricognizione. Il Logger non solo traccia la sua rotta, ma crea anche una mappa del territorio in tempo reale. In più, è in grado di identificare i dettagli nuovi. Chi ha creato i primi robot? I miti relativi ad esseri artificiali fanno parte del pensiero umano dagli inizi dei tempi. Gli antichi greci hanno Efesto, il dio del fuoco, che forgiava servi dal metallo. Nel folklore ebraico troviamo il golem, un essere animato formato da parti inanimate. I veri robot sono una creazione recente. Nel XVI secolo, un artigiano giapponese crea una bambola per servire il tè, Chaakobi Ningyo. Si tratta di un giocattolo a carica. Il robot ha una ruota dentata che lo muove in avanti, servendo tazze di tè bollente agli ospiti strabiliati. La parola robot è usata per la prima volta nel 1920 dallo scrittore ceco Karel Čapek nella commedia I robot universali di Rossum. Oggi c'è un'enorme varietà di robot. Robot semoventi come Boss e il Logger, che possono muoversi da un punto a un altro evitando gli ostacoli lungo il percorso. Ma ci sono molte altre categorie di robot. Bracci meccanici, cioè manipolatori statici che lavorano in ambienti controllati, come le fabbriche. Robot umanoidi che utilizzano mani, braccia e gambe e possono usare strumenti in ambienti familiari all'uomo. Poi ci sono robot costruiti per risolvere problemi più complessi. Necessitano del controllo dell'uomo, come i videogame, ma sono reali. La telepresenza. La telepresenza permette al robot di arrivare dove noi non possiamo o non dovremmo. Un esempio è il robonauta della NASA. Dal busto in su è una replica perfetta dell'uomo, completo di 8 dita e 2 pollici. Controllando il robonauta con la telepresenza, un tecnico in Florida può cambiare una lampadina in una stazione spaziale. Ma possiamo anche rimanere con i piedi per terra. Incontriamo il chirurgo del futuro. Il sistema chirurgico Da Vinci non sostituisce i medici, ma li aiuta a operare con maggiore efficacia. Il sistema Da Vinci riduce al minimo le incisioni, rendendo l'intervento molto più preciso e minimamente invasivo. Il sistema utilizza 4 bracci meccanici interattivi. Ha una capacità motoria superiore a quella umana, una precisione microscopica e usa altri piccoli bracci telescopici che penetrano nel corpo del paziente attraverso incisioni minuscole. Il robot non solo mima i movimenti delle mani del chirurgo, ma ne evita anche gli eventuali tremori. Ci sono altre situazioni in cui la telepresenza può salvare delle vite. Dopo una catastrofe, può essere difficile soccorrere gli eventuali superstiti rimasti intrappolati sotto le macerie. Scommetto che non siete mai stati salvati da un serpente. Incontriamo Beth. Un operatore può teleguidare i serpenti robot, come Beth, attraverso gli spazi più stretti e angusti. Howie Coast, ricercatore presso la Carnegie Mellon University. Può strisciare attraverso spazi strettissimi, arrivando dove né l'uomo né altre macchine possono arrivare. Un soccorritore ha bisogno di uno spazio di circa 50 x 25 cm. A Beth, invece, può bastare uno spazio di 5 cm x 5. L'ingegnosità di Beth sta nel fatto che basta indirizzarla sull'obiettivo. Sceglierà autonomamente la giusta configurazione corporea per arrivarci. Le immagini e il suono arrivano all'operatore tramite il video o via cavo. È importante avere le immagini perché Beth sta passando sotto le macerie e l'unico modo per sapere cosa sta facendo è seguirla sulla console. Per il momento questo è solo un prototipo, ma un gran numero di robot teleguidati sono già operativi in alcune zone a rischio. Nel 2004 l'esercito americano aveva meno di 200 robot. Ad oggi, invece, ci sono più di 6.000 robot in servizio attivo oltreoceano. La maggior parte è impiegata per disinnescare ordigni esplosivi improvvisati. Trovare gli ordigni e renderli inoffensivi è un problema che i soldati affrontano ogni giorno nelle missioni all'estero. Ma anche sul fronte americano esiste il problema. Così le squadre di primo intervento si stanno dotando di robot. Esci dalla stanza e gira a destra. Cammina lentamente con le mani alzate. Sono con gli artificieri della polizia del Massachusetts per vedere come utilizzano i robot telecomandati. Io faccio squadra con due dei loro agenti speciali. L'agente Packbot e il suo braccio destro meccanico, l'agente Andros. Il nostro compito è trovare e far uscire l'individuo. E questo è un lavoro per il Packbot 510. Pesa soltanto 30 kg. Ha 4 telecamere, un braccio mobile e 2 vie di comunicazione. Questo Packbot è disarmato, ma il criminale non lo sa. Quasi tutti i sospetti si arrendono perché non sanno di cosa sono capaci questi robot. Inoltre ci spaventiamo nel sentirci dare ordini da un robot. E a questo punto entra in gioco la squadra speciale. Senza dubbio fanno più paura loro dei robot. Ma non abbiamo ancora finito. È stata localizzata la macchina del sospetto. Gli artificieri credono che possa contenere dell'esplosivo. La squadra schiera il secondo robot. L'Andros F6A è l'ideale per questa missione. Alto solo 1,40 m, l'Andros F6A pesa all'incirca 200 kg. È dotato di 4 telecamere e di una pinza rotante a 360 gradi. Ma soprattutto si può dotare di strumenti per far brillare le bombe. L'Andros è incredibile. Ma tutta la sua destrezza sarebbe inutile se l'operatore non potesse controllarlo e dirigerlo. I robot poliziotti sono già operativi. L'F6A disattiva la bomba usando un meccanismo PAN. Un distruttore non elettrico attivato a percussione neutralizza la bomba senza farla esplodere, sparando un proiettile sull'ordigno. In questo caso si tratta di un getto d'acqua pressurizzata che polverizza la bomba senza spargere schegge intorno. Ok, siamo pronti, la zona è sgombra. La zona è in sicurezza. Fuoco! Oh, accidenti! Bel colpo! Missione compiuta! Radio Doc. Proseguiamo con la seconda parte del radiodocumentario Eureka, il genio dei robot, in collaborazione con History Channel. L'esperto di robotica David Wilson illustra l'affascinante mondo dei robot. I robot sono intorno a noi, con una incredibile varietà di forme e misure. Ma riconoscerli può essere difficoltoso. Allora andiamo a giocare a Robot o Nobot? Gli automi che vediamo combattere in alcuni programmi TV sono fatti per distruggersi a vicenda e sono bellissimi. Ma la maggior parte è radiocomandata al 100%. Possiamo definirli robot? Questi automi agiscono, ma non sentono e non pensano. E questo fa di essi dei Nobot. I robot, piccoli o grandi che siano, sono ormai parte integrante della nostra vita. Ma l'incidenza maggiore è quella sull'industria pesante. Il primo robot industriale, l'Unimate, è stato inventato negli Stati Uniti. L'efficacia del braccio robotico rivoluziona l'industria dell'automobile. Oggi i robot sono essenziali nella produzione di molti beni. Ma come funziona la consegna del prodotto dalla fabbrica al consumatore? I magazzini tradizionali sono catene di montaggio che lavorano in maniera seriale. A un'azione ne consegue un'altra e poi un'altra ancora. Si chiama processo parallelo e indica l'accadere simultaneo di varie azioni. E qui intervengono i Kiva. In un'industria robotizzata, l'uomo non deve più andare in giro alla ricerca dei prodotti. Arrivano pronti, impilati sopra i robot. Quando arriva un ordine, il server centrale spedisce i robot a rintracciare la merce, tutti insieme. In questo modo gli addetti alla spedizione non perdono tempo in giro per il magazzino e l'ordine parte più in fretta. Un esercito di robot trasporta di tutto, dai CD ai televisori, adattandosi alle richieste in tempo reale. Semplificando ricerche spesso difficili, evade le ordinazioni in modo veloce ed economico. Ma il bello è che i robot hanno anche capacità proprie. Si chiama intelligenza distribuita. Ogni robot svolge il proprio compito a livello particolare, modulando la propria velocità e direzione, pensando a come evitare gli ostacoli. Poi agisce, caricando e consegnando la merce. Inoltre i robot non dormono mai, o quasi. Quando le batterie si esauriscono, si fermano per ricaricarsi e per un meritato riposo. Un altro robot lo sostituirà, mantenendo il sistema a pieno regime 24 ore al giorno. Quando vengono creati i primi robot industriali negli anni 60, gli scienziati sono sorpresi dal loro rapido sviluppo. Credono che la creazione di robot che interagiscano con l'uomo sia prossima a venire. Ma ci è voluto più tempo del previsto. La creazione di robot in grado di interagire con le persone su un piano simile a quello umano è molto difficile. Ma c'è motivo di speranza per i robot, perché in realtà l'essere umano è attratto dall'idea di stabilire relazioni con i robot, per quanto semplici esse siano. Keep-On può sembrare un semplice giocattolo, ma il suo vero scopo è cambiare le persone. Marek Michalowski, dottorando Robotics Institute. Interagisce con i bambini affetti da disturbi comportamentali come l'autismo. Nel relazionarsi con un'altra persona, gli autistici subiscono un sovraccarico di informazioni. La base a cilindro contiene le parti meccaniche che lo fanno muovere. Ci sono quattro motori che lo fanno ruotare a destra e sinistra, guardare in su o in giù, dondolare di lato e comprimere. Poi ha due telecamere nelle pupille e un microfono nel naso. I sensori gli permettono di riconoscere i volti delle persone, di vedere gli oggetti colorati e di interagire autonomamente. I sensori permettono anche al terapista di vedere e sentire quello che i bambini fanno e di controllare Keep-On da un'altra stanza. Keep-On stimola il contatto visivo attraverso un software a riconoscimento visivo e grazie al suo aspetto semplice riesce a non spaventare i bambini. Keep-On usa lo sguardo per dirigere l'attenzione dei ragazzi, esprime emozioni positive ballando e annuendo. Quando il terapista non riesce a stabilire un contatto, Keep-On rompe il ghiaccio. Catturando l'attenzione dei bambini con abilità quasi umane, si dimostra un utile strumento di apprendimento. Ma la realizzazione di robot che possano camminare e parlare è cosa ben più complessa. Negli ultimi 20 anni, gli scienziati hanno perfezionato sempre più i robot dal volto umano. Sono detti gli umanoidi. Il termine si riferisce a tutti quei robot che hanno una forma simile all'uomo, con gambe, braccia, mani, eccetera. Il risultato di queste ricerche è Asimo. È uno dei più avanzati robot umanoidi al mondo. Asimo, acronimo di Advanced Step in Innovative Mobility, ovvero fase avanzata della mobilità innovativa, è piuttosto agile per essere un robot. Asimo dimostra una certa padronanza dei movimenti umani di base. Una sfida ancora più grande è la creazione di robot con un'espressività pienamente umana. Negli Stati Uniti, alcuni scienziati del MIT stanno lavorando in questo senso, per produrre robot umanoidi che possano esprimere emozioni. Mi chiamo Nexi e sono un robot MDS. MDS è l'acronimo di Mobile, Dexterous and Social, ovvero mobile, abile e sociale. Il viso tridimensionale di Nexi ha 15 gradi di libertà, che cooperano per comunicare un'espressività riconoscibile da tutti. Posso essere triste, furiosa, confusa, eccitata o annoiata solo con i movimenti del viso. I robot, dunque, possono sembrare troppo umani. Nel 1970, lo scienziato giapponese Masahiro Mori ha fornito una spiegazione scientifica di questo problema. L'ha chiamata Uncanny Valley, la valle misteriosa. Mori traccia in un diagramma le risposte emotive date di fronte a diversi tipi di robot. Fa così una scoperta inattesa. Più un robot ha sembianze umane, più attrae le persone. Tuttavia, quando un robot sembra quasi umano, ma non esattamente tale, accade un fatto strano. Proviamo improvvisamente repulsione. E ciò che ci attraeva prima, ora ci respinge, facendoci sprofondare nell'Uncanny Valley. La repulsione può derivare da un istinto evolutivo a identificare ed evitare individui che ci appaiono anormali, devianti o potenzialmente pericolosi. La sfida per gli scienziati è quindi la creazione di robot con cui relazionarsi senza attraversare il confine dell'Uncanny Valley. In appena un secolo, i robot sono passati da esseri mitici a macchine che fanno il lavoro dell'uomo e vivono in mezzo a noi. Ora ci troviamo all'alba di una nuova generazione di robot che avranno un effetto enorme sulle nostre vite. Che ne direste di poter indossare un vestito da robot come un eroe dei fumetti e acquistare così una forza sovrumana? Potreste sollevare due volte il vostro peso e correre per chilometri in salita senza sudare. I robot come questi sono chiamati Exo, nome derivato da esoscheletro, che sta a indicare lo scheletro esterno di animali quali i granchi, gli scarafaggi e gli armadilli. Nel mondo animale, l'esoscheletro fornisce protezione e aumenta la forza. Gli scienziati lavorano da anni su prototipi di esoscheletro. La sfida più grande è il rapporto tra peso e dimensione. Motori più grandi rafforzano la corazza, ma necessitano di batterie più grandi e più pesanti, che richiedono motori ancora più grandi. È un circolo vizioso. Grazie alle leghe leggere al titanio, alle strutture in fibre composite e alle batterie alimentate al litio, oggi gli esoscheletri possono farci provare l'ebbrezza di una forza sovrumana. L'esoscheletro trasferisce il proprio peso e quello del carico che stiamo trasportando direttamente al suolo, evitando il corpo umano. Gli esoscheletri hanno anche un altro impiego sorprendente: nelle terapie riabilitative dei muscoli e dei nervi danneggiati. Il Locomat, ad esempio, viene già utilizzato in strutture riabilitative per danni alla spina dorsale. La riabilitazione tradizionale mira all'ottimizzazione delle funzioni dei muscoli e dei nervi non danneggiati. Il Locomat, invece, sollecita la ricrescita dei muscoli e dei nervi, stimolando direttamente il cervello. Non solo il Locomat può curare i traumi, ma contribuire alla cura di difetti congeniti. L'attento controllo degli arti aiuta il cervello a riorganizzare l'attivazione neurale, stimolando la ricrescita dei tessuti nervosi danneggiati per comunicare con il muscolo corrispondente. Dopo essere nati come curiose novità meccaniche, i robot fanno oggi parte integrante della nostra vita quotidiana. Da semplici strumenti per migliorare le prestazioni, i robot si stanno evolvendo per diventare veri compagni affidabili. Non più semplici estensioni del nostro corpo, ma fattori di qualità della vita. Prima di chiudere, vi segnaliamo che la versione integrale del radiodocumentario che avete ascoltato andrà in onda su History Channel giovedì 9 aprile alle 10.35 col titolo Eureka, il genio dei robot. Un ringraziamento in redazione a Vittoria Mussini. Radio Doc vi dà appuntamento a domenica prossima. Buonanotte.